Pane-pane di lamun ombak panik bana di lamun ombak. Go. donyo, onde yo malam, urang den sayang. Rarau bagana, isa jo tangi, mangata samo. Oh, Badan kok basah.